Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Anche i sanitari di Asugi verso lo stato di agitazione che sarà proclamato oggi, ma i sindacati non sono uniti. Scuola al via, Udine già in classe, gli allievi di alcuni istituti, a Pordenone viene inaugurata nel pomeriggio la scuola Lozer, la presentazione questa mattina in municipio. Non è ancora spento l'incendio nel territorio di Moggio Udinese, la pioggia caduta ieri non è stata sufficiente. Pordenone rende omaggio ad Armando Pizzinato nel pomeriggio l'inaugurazione dell'antologica a Palazzo Ricchieri. Trieste, i 40 anni di teatro amatoriale con l'Armonia, una realtà capace di portare in scena oltre 370 commedie per 2200 repliche. Sono le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. In apertura alle turbolenze nella sanità, oggi sarà proclamato lo stato di agitazione dei sanitari di Asugi, ma i sindacati non sono uniti. Sentiamo. Soldi e soprattutto rassicurazioni scritte sono le richieste dei sindacati UIL e Nursind che in giornata proclameranno lo stato di agitazione del comparto sanità di Asugi. Al centro la trattativa sul pagamento delle cosiddette ex rare, le risorse aggiuntive destinate alle maggiorazioni dei turni, ai richiami in servizio, alle progettualità. Fin dall'inizio dell'anno i fondi, secondo una perequazione nuova, erano risultati più bassi rispetto al 2023, con una differenza di circa 3 milioni di euro tra Asugi e Burlogarofolo. Una mancanza che la Regione ha promesso di compensare, ma sostengono UIL e Nursind, le promesse continuano a essere reiterate senza però indicazioni precise per iscritto. L'ultimo caso è avvenuto ieri al tavolo tra Asugi e sindacati a Monfalcone, dove il presidente Federica è intervenuto al telefono per rassicurare le sigle sindacali, ricordando che i soldi ci sono e arriveranno a ottobre. Per UIL e Nursind le parole non bastano, salta per loro l'ipotesi di un accordo ponte di un mese in attesa dei fondi della Regione e si va verso la protesta. Più cauta la CISL, che condivide la necessità di rassicurazioni, ma preferisce aspettare lunedì quando deciderà se firmare l'accordo ponte per il mese di settembre. Per la CGIL, che aveva già fatto una protesta a febbraio sulla questione, le parole del Presidente sono invece sufficienti, anche perché, ricorda Francesca Frattiani della CGIL Funzione Pubblica, grazie alle loro pressioni hanno potuto ricevere indicazioni scritte, a differenza delle altre sigle sindacali, che chiarivano le intenzioni della Regione. Noi abbiamo la certezza che i soldi ci saranno. Sul punto si è espresso anche il Direttore Generale di Asugi, che ha ricordato che il presidente Federica ha confermato le risorse e che la trattativa sindacale vera e propria sarà attivata dopo la delibera di stanziamento della Giunta. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Tre giorni con la CGIL, il titolo di un'iniziativa organizzata dal sindacato a Trieste, al Kulturdom di Prosecco. Oggi pomeriggio dalle 15 alle 18 si parlerà di città della cura e civiltà della cura, un viaggio nella dimensione politica e sociale del lavoro di cura sul territorio. Interverranno tra gli altri Chiara Cristini dell'IRES, Tullia Catalan dell'Università di Trieste, Maria Vanto del Coordinamento Donne ed ex dirigente dei servizi consultori familiari di Trieste, Giovanna Pacco, direttrice dell'Associazione dei Banfield, del Smeralda Rizzi del Dipartimento Politiche di Genere della CGIL. A Udine in alcune scuole le lezioni sono già cominciate e tra i banchi ci sono le novità delle regole decise dal Ministero, tra cui quella che nelle elementari e nelle medie c'è il divieto dell'uso dei cellulari. Dopo Trieste, Gorizia e Pordenone, giornata di presa di servizio dei supplenti oggi nell'ex provincia di Udine. L'anno scolastico inizia ufficialmente l'11 settembre, anche se alcuni istituti hanno già anticipato l'inizio delle lezioni o lo anticiperanno a lunedì 9. Nuovo anno che inizia anche con la novità del divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare anche a fini educativi e didattici per gli alunni delle scuole dell'infanzia fino alle secondarie di primo grado, le medie, salvo che questo sia previsto da piani educativi personalizzati o come supporto a disabilità o disturbi dell'apprendimento. Divieto introdotto in una circolare di luglio del Ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara. A tutela, si legge nella missiva ai dirigenti scolastici, del corretto sviluppo della persona e degli apprendimenti. Al quarto comprensivo di Udine, in queste ore le parole di quella circolare vengono aggiunte in rosso ai due documenti con cui si regolano i rapporti con le famiglie, il regolamento di istituto e il patto di corresponsabilità. Documenti che sono portati all'attenzione dei docenti nelle varie assemblee che si sono svolte in questi giorni e modifiche che poi saranno ratificate da collegio docenti e consiglio di istituto, indica il dirigente Guido Zoncu. Diversi presidi segnalano che nei loro comprensivi di fatto era già prassi non averlo o tenerlo spento nello zaino il cellulare alle medie. Abbiamo riscontrato che per la grande maggioranza delle scuole non cambierà nulla, afferma Giacomo Trevisan, coordinatore regionale dell'associazione MEC, che si occupa del patentino per lo smartphone in classe, coinvolgendo ragazzi e genitori. Le nostre scuole in regione non usano smartphone per fini didattici in genere, ma PC e tablet, che da circolare si potranno continuare a utilizzare sempre per fini didattici. Il messaggio, continua Trevisan, è più di tipo simbolico per richiamare l'attenzione ad alcune ricerche recenti, che sono infatti citate nella circolare, e far capire alle famiglie che le prescrizioni a scuola si devono sempre accompagnare al lato educativo tra le mura domestiche. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Gorizia, nuova collocazione per il centro intermodale per il servizio TPL nel periodo scolastico. Da lunedì 9 settembre il capolinea sarà posizionato in Corso Italia, nel tratto tra l'intersezione con via Trento e quello con piazzale Saba, sul lato dei Civici Pari. Questa scelta, concordata tra polizia locale e tecnici della PT e caldeggiata dal comune, consentirà il mantenimento del doppio senso di marcia. Un provvedimento che si rende necessario per la prosecuzione dei lavori da parte di Rete Ferroviaria Italiana nel piazzale Divisione Martiri della Libertà, nell'ambito dell'opera di riqualificazione della stazione ferroviaria. Nel tratto di Corso Italia interessato dallo spostamento del centro intermodale entreranno in vigore il divieto di sosta e il limite di velocità di 30 km orari. La nuova soluzione resterà in vigore fino al prossimo 30 giugno. A Pordenone sarà inaugurata alle 18.30 la nuova scuola Giuseppe Lozer nel quartiere di Torre. Le caratteristiche dell'istituto comprensivo atteso da tempo sono state illustrate in municipio. È uno dei primi effetti concreti a Pordenone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che lo ha in parte finanziato. La scuola secondaria di primo grado Lozer è pronta a ospitare 460 studenti medi dell'anno scolastico entrante, 22 classi in tutto. Nel quartiere di Torre però i lavori proseguono per abbattere l'adiacente struttura che sarà sostituita da palestra e auditorium. Nella scuola sono già iniziate le prime riunioni preparatorie dei docenti in vista dell'avvio delle lezioni fissato per l'11 settembre. I lavori hanno incontrato una serie di ostacoli a partire dalla fiammata dei prezzi dell'edilizia che hanno cresciuto il costo totale da 9 a 11 milioni. Oltre al PNRR, il progetto è stato finanziato da Comune e Regione. La scuola è sismicamente sicura ed efficiente dal punto di vista energetico. Le aule sono più grandi di quanto previsto dai minimi di legge. Tra le innovazioni, la presenza di armadietti personali per ogni studente. La riqualificazione del patrimonio edilizio delle scuole pordenonesi, avviata dall'amministrazione Ciriani, vale in tutto una cinquantina di milioni. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Ater di Udine attiverà dal 10 settembre un nuovo servizio che mira a migliorare ulteriormente la comunicazione con i propri utenti. Si tratta di un call center dedicato, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 al numero unico 0432 491111. Questo servizio, si legge in un comunicato, rappresenta un altro passo avanti nell'impegno dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Udine verso la semplificazione e l'efficienza dei propri canali di contatto. L'innovativo sistema di risponditore automatico indirizzerà gli utenti in modo rapido e preciso al servizio di cui hanno bisogno, che si tratti di richieste amministrative, di pronto intervento o tecniche. Nei boschi del Monte Cimadorso, dopo i 17 mm di pioggia caduti ieri, oggi le squadre della Forestale e della Protezione Civile sono di nuovo al lavoro, perché in mattinata hanno ricominciato a scorgersi dei fumi nell'area che dallo scorso agosto è stata colpita da un vasto rogo. Al momento è dunque in azione un elicottero della Protezione Civile che ha già ripreso a lanciare acqua dall'alto sui punti più caldi della zona. A Trieste sarà effettuata questa sera la disinfestazione antidengue nella zona di Largo Barriera, decisa in seguito all'emersione di un nuovo caso di infezione in città. Doveva svolgersi ieri sera, ma è stato rimandato per la pioggia. Il trattamento sarà effettuato nell'area fra Piazza Garibaldi e l'ospedale Maggiore, tra le vie interessate, via Pascoli, via Manzoni, angolo via Pascoli, via Vasari, via d'Azeglio, piazza dell'Ospitale all'angolo con via Slat, per poi via della Maiolica e via Carducci all'angolo di questa via Maiolica. Inoltre corso Saba all'angolo con piazza Goldoni, largo Barriera Vecchia, via Oriani. Nel corso delle operazioni sarà in vigore il divieto di transito, indicativamente dalle 22 fino all'una di notte e comunque fino alla cessata necessità per tutti i veicoli nei tratti stradali che sono stati citati. Durante il trattamento sarà necessario restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse, sospendendo il funzionamento di impianti di ricambio dell'aria e tenendo al chiuso gli animali domestici. 12:40 passiamo al meteo, il cielo è coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 23,5 gradi, il mare è quasi calmo con temperatura di 27,5 gradi, a Gorizia 23, Udine 22,5 gradi, Pordenone 20,5 gradi, in area montana Tolmezzo 19, Tarvisio e Forni di Sopra 16,5 gradi, Sappada 13,5 gradi, Piancavallo 13, in quota sul Monte Zoncolan 11,5 gradi, sul Monte Lussari 10,5 gradi, sulla costa Grado 24, a Lignano 22,5 gradi, la temperatura del mare in entrambe le località è di 24,5 gradi. Per le previsioni meteo del fine settimana abbiamo sentito l'esperto dell'ARPA, Sergio Nobbio. Dopo il gran caldo che abbiamo avuto in questi giorni sono arrivate già i primi impulsi atlantici che hanno portato dei rovesci, delle piogge localmente abbondanti. Abbiamo una fase un po' di attesa, questa che vediamo per la giornata di sabato e per parte della giornata di domenica, resterà un po' di umidità nei bassi strati, quindi una certa variabilità sulla regione, la possibilità di piogge è piuttosto bassa, ma diciamo saranno possibili sia sabato nelle ore centrali, soprattutto sulla zona montana, delle piogge sparse e poi anche dei rovesci anche nella mattina di domenica. Un peggioramento più consistente è in vista per la serata di domenica, nella notte tra domenica e lunedì. Arriverà un fronte dal Mediterraneo che porterà concorrenti da sud, inizialmente sud-sud-est sostenute e poi da sud-ovest di Libeccio, porterà delle piogge appunto nella notte tra domenica e lunedì, delle piogge abbondanti e localmente anche intense, accompagnate anche da temporali. Quindi si aspetta comunque una fase tendenzialmente più umida, perlomeno fino a lunedì. Poi nel corso della giornata di lunedì arriveranno correnti più secche e la temperatura scenderà un po', riportandosi sui valori più normali del periodo. Ecco, queste diminuzioni di temperature più o meno di quanto saranno? Diciamo che in vista l'arrivo di aria un po' più secca, più fresca, non particolarmente fredda, quindi cominciamo ad avvicinarci a valori più consueti, siamo in settembre, quindi le massime resteranno sempre intorno ai 25-26 gradi in questi giorni, probabilmente poi scenderà di un po', sarà più fresco nelle ore notturne, ma questo a partire da martedì, quando arriveranno anche le schiarite. A Trieste sono attesi almeno 1000 delegati provenienti da 500 organizzazioni al Big Science Business Forum in programma dall'1 al 4 ottobre presso il Convention Center in Porto Vecchio. Ci saranno 150 stand e 14 padiglioni nazionali. Oltre all'Italia saranno presenti altri 19 paesi. L'evento, focalizzato su ricerca e business, riunisce le principali infrastrutture scientifiche presenti in Europa e le aziende internazionali leader dei settori industriali di alta tecnologia e innovazione, ma anche le piccole e medie imprese ad alto contenuto tecnologico. Il mercato europeo della Big Science oggi genera, attraverso commesse e progetti, un valore di 10 miliardi di euro ogni anno. Il forum è stato presentato a Torino in un incontro promosso da Regione Friuli Venezia Giulia e Confindustria. Si tratterà della terza edizione della rassegna dopo quelle di Copenaghen e Granada. E a Trieste sono oggi in avvio le anticipazioni della Notte Europea dei Ricercatori, iniziativa in calendario il 27 settembre, intesa a sensibilizzare sul ruolo fondamentale della ricerca nella società. In calendario incontri, visite agli istituti di ricerca e film. Oggi in programma un incontro di Sumo Science, cioè un confronto tra il mondo della ricerca e quello della scuola, che si sviluppa con una sfida, con domande e risposte, e la proclamazione del vincitore da parte del pubblico. Appuntamento appunto a Trieste, al Pub Bel Bufo di via Malcantona alle 19 con Federica Moretti dell'Università di Trieste, che parlerà di nanotecnologie, e Marco Reale, climatologo dell'OGS, che parlerà di climatologia. Lo abbiamo intervistato per chiedergli se le scienze possono essere contrapposte le une alle altre. Personalmente penso di no, cioè non ho mai pensato al fatto che il mio ambito scientifico sia in qualche maniera, diciamo, opposto ad altri ambiti scientifici. Diciamo che le scienze sono accomunate da tante cose insieme, eh. Sicuramente il metodo che noi seguiamo all'interno di quello che facciamo tutti i giorni, il metodo scientifico è quello, il metodo che usano i fisici, i chimici, i biologi, i medici, eccetera, eccetera. Diciamo che non penso che le scienze siano opposte. Possiamo pensarlo simpaticamente, uno può dire quello che faccio io è più, diciamo, figo rispetto a quello che fanno gli altri, ma non è assolutamente così, perché alla fine la scienza è una continua meraviglia dal mio punto di vista. E anche questo spero che sia qualcosa che saremo in grado, io e la mia collega con cui mi confronterò oggi, saremo in grado di comunicare alle persone. Voglio dire, io mi sorprendo sempre ogni volta che leggo di nuove scoperte scientifiche. Ci dovremmo sorprendere sempre in realtà quando sentiamo parlare di scienza, perché una delle fortune della scienza è che comunque è qualcosa che riguarda tutti quanti. Voglio dire, una scoperta scientifica, pensiamo a quello che è successo in pandemia, abbiamo avuto i vaccini praticamente in un anno, questi vaccini sono stati resi disponibili a tutti quanti, quindi non è stato qualcosa che è stato limitato a chi ha fatto ricerca su questi ambiti, ma fortemente qualcosa che ha riguardato, è stato poi positivamente la vita di tutti quanti. Non mi fermo qui, nel senso, spesso vedo immagini online interessantissime, ad esempio un po' di tempo fa guardavo un'immagine di una mammografia, questo è un ambito scientifico diverso da quello che pratico io, però è interessante notare che la tecnica che veniva spiegata all'interno di quella mammografia, cioè l'elaborazione delle immagini, era qualcosa che arrivava dall'astrofisica, dal telescopio Hubble. Per cui non penso che le scienze siano in qualche maniera opposte, probabilmente trattano magari alle volte tematiche differenti, però gli effetti benefici delle scienze sono, riguardano tutte. La pagina della cultura e degli spettacoli si intitola Armando Pizzinato e il fronte nuovo delle arti 1946-1950, la mostra antologica organizzata a Pordenone in occasione del ventennale della scomparsa dell'artista originario di Maniago. A Palazzo Ricchieri, a cura di Casimiro Di Crescenzo, presentate le opere di quello che la critica considera il migliore periodo del maestro. L'inaugurazione è oggi pomeriggio alle 17 e l'apertura al pubblico da domani. La mostra poi si potrà visitare fino al 6 gennaio. Ed è dedicata alla pubblicità, l'inaugurazione odierna inclusa nella mostra L'Adriatico nell'arte del manifesto, un secolo di navigazione sulle rotte del mondo, ora dunque ampliata ad opere grafiche di grandi dimensioni ed intitolata L'arte della réclame, dal viaggio al piacere della vita. L'evento, in programma a Monfalcone, alla Galleria Comunale di Piazza Cavour alle 17.30, prevede una conferenza di Matteo Martinuzzi, direttore scientifico della Fondazione Fincantieri, in tema Dall'Adriatico al mondo, le navi da record dei cantieri di Monfalcone, che presenterà anche con immagini inedite le principali produzioni di uno stabilimento che ha fatto la storia della cantieristica mondiale. A seguire l'inaugurazione della nuova sezione dedicata alla collezione personale di Loris Calcaterra, con manifesti pubblicitari firmati da personalità come Marcello Dudovic, Lucio Fontana e Giovanni Patrone. A Trieste torna Link Media Festival in Piazza Unità da oggi a domenica, 3 giorni con le grandi voci del giornalismo, a cominciare da Giovanna Botteri, che sarà protagonista dell'incontro di apertura alle 16.45 dedicato al giornalismo di guerra. E questa sera alle 18 Botteri riceverà il premio del festival, Testimoni della Storia. Tra gli incontri di oggi, quello delle 19.30 con Paolo Rumiz, autore di Verranno di notte, lo spettro della barbarie sull'Europa, questo è il titolo del suo ultimo libro. In dialogo con la vice direttrice della TGR Roberta Serdoz, traccerà il possibile futuro del continente. Al Tribunale di Trieste si stanno girando le ultime scene del film One Life, l'università dei bambini, del regista Rodolfo Bisatti, una storia su quanto possa insegnare agli adulti la generazione dei nativi digitali. È l'ultima scena del film On Life, l'università dei bambini. Siamo al Tribunale di Trieste e l'avvocata della contessa Olimpia, interpretata dalla splendida Benedetta Barzini, difende la sua missione, cioè quella di aver dato ad un gruppo di 10 ragazzi problematici un'opportunità di vita, fondando nella sua villa una casa famiglia dal nome On Life. Una commedia che vuole far riflettere sul sistema educativo, in cui la scuola rischia di non essere più all'altezza del compito che si pone, perché i nativi digitali usano strumenti diversi di apprendimento. Il film propone un ribaltamento dei piani e vede i piccoli insegnare ai grandi. Il regista Rodolfo Bisatti. Siccome i ragazzi vengono sempre considerati gli ultimi, considerati NEET, persone che non studiano, non lavorano, non fanno niente, con questo film diamo una visione completamente opposta. I ragazzi diventano insegnanti e gli adulti allievi. E chi sono i ragazzi che interpretano il ruolo di questi nuovi maestri? Ma devo dire che sono tutti ragazzi estremamente problematici ma stupendi. Io li ho scelti con molta precisione a partire dai miei figli. Il film, prodotto da Kineo Film, è una coproduzione italiana, francese e spagnola ed è stato girato nelle ultime 6 settimane tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Nel cast nomi di prestigio come l'attore teatrale Paolo Bonacelli e Benedetta Barzini, ex modella, attrice, giornalista e docente. Cosa le ha insegnato questa storia? Di essere più attenta e meno giudicante, che so di non sapere, cioè so di non conoscere, di non riuscire a entrare dentro la nuova mentalità, i nuovi valori, però posso rispettare chi li ha e questo è importante e non volere trascinare le persone a quello che eravamo noi, che non è che abbiamo fatto un granché bene al mondo. Trieste, Vaciuti, GR Friuli Venezia Giulia. Teatro amatoriale sta per alzarsi sipario sulla 40ª stagione del teatro in dialetto triestino che è stata illustrata questa mattina in municipio a Trieste. La rassegna, organizzata e promossa dall'Armonia, l'associazione tra le compagnie teatrali triestine, comincerà il 19 ottobre. Il cartellone è composto da 9 commedie in abbonamento e 6 fuori abbonamento. Prima del via a presentare la stagione sarà uno spettacolo dal titolo L'Armonia fa 40, in scena domenica 29 settembre al teatro di Via Ananian. E tra una settimana, il 13 settembre, sarà inaugurata a Palazzo Costanzi una mostra che racconta appunto i 40 anni del sodalizio, durante i quali sono state prodotte più di 370 commedie per quasi 2200 repliche. Le presenze agli spettacoli sono state poco meno di 500.000. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. Il comico Gianni Vernia con il suo live apre a San Vito al Tagliamento la rassegna Stelle d'Estate in Piazza del Popolo alle 21. Nello show anche le parodie che hanno reso celebre l'artista genovese, da Fedez a Jovanotti, da Pifa a Mauro Corona. Alla musica, a Lignano, all'Arena Alpe Adria, fa tappa il tour di Cristiano De André, mentre il croato Baby Lasagna, pop star dell'Eurovision, è tra i protagonisti del Borderless Party questa sera davanti al municipio di Nova Gorica, evento inserito nel quadro di Go 2025. E da qui lei c'è cioè il penultimo appuntamento del ciclo concerti in Basilica. Stasera saranno protagonisti l'orchestra d'archi Arrigoni con Elisa Spremulli, violino solista, e l'ensemble Mittelvox. In programma la messa solenne Ostella Maris del compositore friulano settecentesco Pietro Alessandro Pavona. Siamo alla pagina dello sport. Alle Paralimpiadi di Parigi, il giorno della finale per la medaglia d'oro per Giada Rossi e Matteo Parenzan, che ieri si sono qualificati quasi in simultanea nelle rispettive categorie del tennis tavolo. Primo a scendere in campo sarà l'atleta triestino, che alle 17 affronterà il thailandese Tai Nyom. Parenzan in semifinale, lo ricordiamo, ha battuto 3-0 lo statunitense Zaiden Feld, campione paralimpico in carica, mentre Tai Nyom ha avuto ragione del danese Rosenmeier, campione a Rio. E alle 18 l'atleta Giada Rossi contenderà la vittoria alla cinese Liu. Rossi ha battuto ieri in 5-7 la polacca Buzov. Calcio giovanile allo stadio Rocco, dove si disputa il torneo Città di Trieste per nazionali under 17. L'Italia alle 20 affronterà la Svizzera, a Monfalcone alle 17 si affronteranno Portogallo e Spagna. Basket, da oggi l'ottava edizione del quadrangolare Memorial Paietta a Udine con l'APU, che affronterà il Carnera alla Tezenis Verona all'inizio alle 20.45. In precedenza Orzi Nuovi contro Brindisi, domani poi le finali. Da Gesteco Cividale giocherà Lignano nel trofeo Bortolussi, l'avversario è Vigevano, l'inizio alle 21.15. Alle 19 saranno in campo Forlì e Vispesaro. Le manifestazioni prende il via nel pomeriggio ad Auresina la tradizionale settembrina, festa promossa dalla Commissione Tempo Libero dei Lavoratori della CEGAS APS AMGA di Trieste. L'appuntamento nel comprensorio dei filtri di Santa Croce alle 17 con l'apertura dei chioschi enogastronomici. In programma fino a domenica sera musica, balli, giochi e altre manifestazioni. Ancora qualche appuntamento prima di chiudere: la conferenza La Conquista del Monte Santo e un concerto insolito si terrà a Gorizia a Palazzo Coronini alle 18. Per la Per la 33esima edizione della rassegna Vostanis, intitolata Il Giro di Seta, sarà presentato il libro Ricorderò chi sono, Aquileia il futuro della memoria, ad Aquileia, nella sala consiliare del Comune, alle 18. Il libro Napoleone, la guerra del 1809 in Italia, sarà presentato da Giuseppe Marini a San Tommaso di Maiano, all'ospitale di San Giovanni, alle 20. E si intitola Testa e Cuore, il libro di Suleyma Del Pub, che sarà presentato a Cordenonza, al Centro Culturale Aldo Moro, alle 18. L'acoustic duo Michele Pirona e Marina Bargone, coppia artistica udinese, chitarra e voce, si esibirà a Gramogliano di Corno di Rosazzo, l'azienda agrituristica San Biagio, alle 19. Per il festival Teatri Fuori dai Teatri sarà rappresentato lo spettacolo Patanostrada, la terra di Stefano Rota, che racconta l'epopea dei braccianti veneti, partecipanti alla grande bonifica integrale, appuntamento a Porcia, Villa Dolfina, alle 20.45. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Carlo Morello e Caterina Cabrelli, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. 12.55, prossima edizione alle 15. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.